Simone seppe che Trifone stava radunando un numeroso esercito per venire in Giudea a saccheggiarla. Vide che il popolo era tremante e impaurito. Andò a Gerusalemme e radunò il popolo. Li confortò e disse loro: «Voi sapete bene quanto io e i miei fratelli e la casa di mio padre abbiamo fatto per le leggi e per il santuario e le guerre e le difficoltà che abbiamo sostenuto. Per questa causa sono morti i miei fratelli, tutti per la causa di Israele, e sono restato io solo. Ebbene, mai risparmierò la vita di fronte a qualunque tribolazione, perché io non sono più importante dei miei fratelli. Anzi, io difenderò il mio popolo e il santuario e le vostre mogli e i figli vostri, poiché si sono radunati tutti i pagani per sterminarci, spinti dall'odio». Lo spirito del popolo si infiammò all'udire queste parole. Perciò risposero gridando a gran voce: «Tu sei il nostro condottiero al posto di Giuda e di Gionata, tuo fratello. Combatti la nostra guerra e quando ci comanderai noi faremo». Egli allora radunò tutti gli uomini atti alle armi e accelerò il completamento delle mura di Gerusalemme e le fortificò tutt'attorno. Poi inviò Gionata, figlio di Assalonne, con un forte esercito a Giaffa. Egli ne scacciò gli occupanti e rimase là, sul posto. Intanto Trifone si mosse da Tolemaide con ingenti forze per venire in Giudea e aveva con sé Gionata come prigioniero. Simone a sua volta si accampò in Adida di fronte alla pianura. Trifone venne a sapere che Simone era succeduto a Gionata, suo fratello, e che si accingeva a muovergli guerra, perciò mandò messaggeri a proporgli: «Gionata, tuo fratello, lo tratteniamo a causa del denaro che doveva all'erario del re per gli affari che amministrava. Ora mandaci 100 talenti d'argento e 2 dei suoi figli in ostaggio, perché una volta liberato non si allontani per ribellarsi a noi. Con questo lo rimetteremo in libertà». Simone si rese conto che gli parlavano con inganno, ma mandò ugualmente a prendere l'argento e i figli per non attirarsi una grande inimicizia da parte del popolo, che poteva commentare: «È perito perché non gli ha mandato l'argento nei figli». Perciò gli mandò i 100 talenti e i figli, ma quegli non mantenne la parola e non liberò Gionata. Fatto questo, Trifone si mosse per entrare nel paese e a devastarlo, girando per la via che conduce ad Adora. Ma Simone con le sue truppe ne seguiva le mosse puntando su tutti i luoghi dove quegli si dirigeva. Quelli dell'Acra intanto inviarono messaggeri a Trifone per sollecitarlo ad andare in loro aiuto attraverso il deserto e a inviare loro vettovaglie. Trifone allestì tutta la sua cavalleria per andare, ma in quella notte cadde neve abbondantissima e a causa della neve non poté andare. Perciò si mosse e andò a Galat. Quando fu vicino a Bascama, uccise Gionata e lo seppellì sul posto. Poi tornò e partì per la sua regione. Simone mandò a prendere le ossa di Gionata, suo fratello, e lo seppellì in Modin, città dei suoi padri. Tutto Israele lo pianse con un grande lamento e fece lutto su di lui per molti giorni. Simone sopraelevò il sepolcro del padre e dei fratelli e lo pose bene in vista con pietre levigate dietro e davanti. Poi dispose 7 piramidi l'una di fronte all'altra per il padre, per la madre e per i 4 fratelli. Le completò con una struttura architettonica, ponendovi attorno grandi colonne. Pose sulle colonne trofei d'armi e a perenne memoria e presso i trofei navi scolpite che si potessero osservare da quanti erano in navigazione sul mare. Tale è il mausoleo che eresse in Modin e che esiste ancora. Trifone agiva con perfidia verso Antioco, il re ancora giovinetto, finché lo uccise e si fece re al posto suo. si mise a capo la corona di Asia e procurò grandi rovini al paese. Simone intanto completò le fortezze della Giudea e cinse di torri elevate e di mura solide con portoni e sbarre e rifornì le fortezze di viveri. Poi Simone scelse uomini adatti e li inviò al re Demetrio per ottenere esoneri al paese, perché tutti gli atti di Trifoni erano state rapine. Il re Demetrio lo assicurò in questo senso, poi gli rispose per iscritto inviandogli la seguente lettera. Il re Demetrio a Simone, sommo sacerdote e amico del re, agli anziani e al popolo dei Giudei, salute. Abbiamo ricevuto la corona d'oro e la palma che ci avete inviate e siamo pronti a concludere con voi una pace solenne e a scrivere ai sovrintendenti gli affari di concedervi le esenzioni. Quando stabilimmo con voi, resta stabilito e le fortezze che avete costruite restino di vostra proprietà. Vi condoniamo le mancanze e le colpe fino ad oggi e la corona che ci dovete. Se altro si riscuoteva in Gerusalemme, non sia più riscosso. Se alcuni di voi sono atti ad essere iscritti al seguito della nostra persona, siano iscritti e regni la pace tra di noi. Nell'anno 170 fu tolto il giogo dei pagani ad Israele e il popolo cominciò a scrivere negli atti pubblici e nei contratti. Anno primo di Simone il Grande, sommo sacerdote, stratega e capo dei Giudei. In quel tempo Simone pose il campo contro Gezer, la circondò di accampamenti, fece allestire una torre mobile, la spinse contro la città e abbatté una torre impadronendosi. I soldati della torre mobile si lanciarono nella città e si produsse una città in grande trambusto. I cittadini salirono sulle mura insieme con le mogli e i bambini, con le vesti stracciate, e supplicarono a gran voce per indurre Simone a dar loro la destra, e dissero: «Non trattarci secondo le nostre iniquità, ma secondo la tua clemenza». Simone venne a patti con loro e non combatté oltre contro di loro, ma li scacciò dalla città, purificò le case nelle quali erano idoli e così entrò in città con canti di lode e di ringraziamento. Egli eliminò da essa ogni contaminazione e vi stabilì uomini che fossero osservanti della legge. Poi la fortificò e costruì in essa la propria dimora. Ora quelli dell'arca in Gerusalemme, messi nell'impossibilità di uscire e venire nel paese a comprare e vendere, erano estremamente affamati e buon numero di essi moriva di fame. Allora fecero giungere il loro grido a Simone, perché desse loro la destra, e Simone la diede. Così li sloggiò di là e purificò Acra da tutte le contaminazioni. Fecero ingresso in quel luogo il 23 del secondo mese dell'anno 171, con canti di lode e con palme, con suoni di cetre, cembali e arpi, e con inni e canti, perché era stato eliminato un grande nemico da Israele. Simone stabilì di celebrare ogni anno questo giorno di festa. Intanto completò la fortificazione del monte del Tempio lungo l'Acra, qui abitò con i suoi. Vedendo poi che suo figlio Giovanni era ormai uomo, Simone lo fece capo di tutte le milizie e questi pose la sua residenza a Gezer.